Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con le storie di cronaca dell'Italia e della sua provincia, i fatti, i personaggi che ci danno un punto di vista originale. Oggi parliamo di come mangiamo. C'è un movimento che sta crescendo lentamente ma inesorabilmente, è quello dell'alimentazione biologica. Che cosa vuol dire, si domandano soprattutto gli scettici, dal momento che in senso tecnico tutto è bios, tutto è vita, quello che mangiamo sia di origine vegetale o animale, e dal momento che uno standard unico e condiviso da tutti del biologico non esiste ancora. Non vogliamo però rispondere oggi a questa domanda, ma seguire la strada di chi si è convinto che si può tornare a mangiare le verdure di stagione prodotte localmente, di chi cerca cibi poco sofisticati e pensa che questa alimentazione faccia anche bene alla salute, oltre che alla natura, di chi per esempio si preoccupa di cosa mangiano nelle mense scolastiche i nostri bambini. Cristina Carpinelli. Come si mangia a scuola e negli ospedali? Lo sapete che il 10% dei prolungamenti dei ricoveri è legato a cattiva alimentazione? Sapete che ogni anno le mense producono 9 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti? A Roma, da quando in molte scuole si è passati al biologico, si sono ridotti i casi di malattia dei bambini. Ma la regione che ha aderito meglio di tutti è stata l'Emilia-Romagna. Partiamo dai numeri. Quanto costa e come funziona una mensa biologica? Per farlo siamo andati al comune di Argelato, 9.460 abitanti, 125.000 pasti all'anno, 700 pasti al giorno. Il comune è stato tra i primi del bolognese a partire con il biologico. Oggi in tutte le mense scolastiche c'è un menù bio al 100%. Prendiamo questa esperienza come esemplificativa. Nel 2003 il comune di Argelato ha predisposto la base d'appalto per la mensa interamente biologica. È stato previsto un aumento del 50% di tutti i prezzi delle materie prime, aumento che ha significato incremento del costo effettivo di ogni pasto limitato al 16%. Nella regione è stata poi emanata una legge dello Stato che dovrebbe imporre per i bambini e dunque in tutte le mense scolastiche cibi biologici privi di pesticidi e OGM al 100%. Il signor Daniele Ara, che gestisce lo sportello Mense Collettive Bio di tutta la regione Emilia-Romagna, ci ha spiegato come sta andando questo progetto. C'è una legge nazionale che è prevista nella finanziaria del 2000, che è la 488. Comunque, finanziaria del 2000, e c'è una prima indicazione nazionale, poi 7-8 regioni hanno legiferato a seguito di questa legge nazionale. E l'Emilia-Romagna ha fatto quella ritenuta un po' più avanzata. E quindi è una legge di orientamento per i comuni e gli ospedali per l'introduzione dei prodotti biologici e a marchio di qualità certificata. E a che punto è la legge? Allora, progressivamente tutti i comuni sanno che devono applicarla, anche se è una legge che non prevede sanzioni e non prevede incentivi. Sono comuni virtuosi, circa il 20%, che mettono quasi tutto il bio possibile. Poi c'è una fascia mediana di un 40% dei comuni che mette una decina di referenze, quelle più economiche, e poi gli altri comuni che hanno poco o niente bio. Capito? Perché secondo lei quali sono le resistenze che vengono portate? A volte c'è proprio un problema di sottovalutazione, insomma, dell'importanza di questa cosa, e poi ci sono invece alcuni problemi oggettivi, a volte di costi, nel senso che se uno non fa una riorganizzazione efficiente del modello di mensa e pensa di sostituire unicamente il prodotto convenzionale col prodotto biologico, non ci sta dentro coi costi. Introdurre il biologico significa ragionare anche sulla riorganizzazione dei menu, trovare delle economie in tutta la gestione. Quello che diciamo noi è che comunque l'aumento di costi, che comunque è di un, alla fine parliamo di un 10-15% su tutto il costo pasto, bisogna mettere anche le esternalità positive. Se poi riesci anche a costruire, e questo è anche un po' il compito nostro, delle filiere locali, cioè a seguito di un impegno dell'amministrazione acquisire un prodotto di un certo tipo, si mette poi in moto un'economia locale, se si indirizza bene. Cioè è una classica politica di acquisti verdi che può indirizzare anche lo sviluppo locale dal punto di vista ambientale ed economico. Nel 2006 le mense bio in Italia erano 658 per un totale di 896.000 pasti giornalieri. Le regioni che vantano il maggior numero di mense bio sono Emilia-Romagna con 127, Lombardia 111, Toscana con 80, Veneto con 72 mense bio e Friuli-Venezia Giulia